Food Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Come quando si va in metropolitana e ci sono i tornelli che dicono quanta gente entra ogni giorno. Ecco, pensa se ci fossero i tornelli per le api. Qui a Foodlab, il programma che vi racconta le tecnologie d'avanguardia nel mondo dell'agricoltura, adesso vi raccontiamo delle arnie informatizzate. Parliamo di api, però nel preparare questa puntata tu mi hai dato un'informazione che io avevo perso, direi, cioè che non esistono più alveari in natura? Non esistono più api mellifere, che sono le api che fanno il miele, cioè esistono soltanto grazie appunto all'impegno di alcuni, di tanti apicoltori. Ma di questo proprio parleremo con Paolo Fontana. Benvenuto Paolo. Grazie a tutti. Giustamente l'introduzione è doverosa, nel senso che abbiamo sentito parlare in questi anni tanto della perdita e della moria delle api, sì, delle api da miele. È così, insomma, esistono soltanto perché sono in cattività, cioè perché che le utilizzano gli apicoltori per produrre il miele. Sì, l'ape mellifera è un insetto chiave per la conservazione della biodiversità, perché non solo è lo stupendo animale accudito dagli apicoltori per produrre il miele, il polline e la cera, ma è all'apice di quel gruppo di organismi, prevalentemente insetti, dediti all'impollinazione delle piante. Purtroppo negli ultimi 30 anni si è vista la quasi totale scomparsa, in tutta Europa almeno, degli alveari selvatici di ape mellifera, sì, a causa dell'introduzione di un acro parassita. Quelli che erano sugli alberi oppure sotto i tetti delle cascine, per esempio, no, non, sì, ci sono più questi, non ci sono più questi? No, e pensi che io collaboro, sono membro del IUCN, che è l'organizzazione che stila le liste rosse degli animali in via d'estinzione. Sì. Bene, questa specie non è a rischio di estinzione solo perché è accudita dagli apicoltori. Noi adesso l'abbiamo chiamata perché lei è ricercatore anche della Fondazione Edmund Mac e ha messo a punto un'arnia informatizzata con il suo team di ricerca, ovviamente. Le chiederemo di spiegarci qui proprio a Foodlab, dove raccontiamo un po' le tecnologie legate al cibo, all'alimentazione, ma anche alle tecniche di allevamento e di agricoltura. Voi avete messo a punto l'arnia informatizzata. Che cos'è? Intanto è un'arnia dotata di sensori che possono fornire dei dati sia sullo sviluppo dell'alveare e anche dati ambientali per poter interfacciarli. Però, per dirla la cosa molto semplicemente, è un'arnia, è una serie di strumenti che si applicano a qualsiasi arnia, in cui noi possiamo contare quante api escono, quante api rientrano, che peso ha l'alveare, quindi se stanno portando miele o se si stanno affamando, che temperatura ha all'interno il nido, quindi se le api sono anche in grado di allevare la loro covata in modo efficace, e interfacciare i dati con i dati ambientali. Questo immaginiamo sia davvero importante sia per l'apicoltore sia per voi ricercatori, per capire lo stato sia ambientale ma anche della salute dell'animale, perché magari un'ape che esce e non torna vuol dire che c'è qualche problema. Certamente. La particolarità di questo progetto però è molto grande, perché invece di fare una strumentazione stratosferica molto costosa, si è cercato di sviluppare uno strumento che possa essere diffuso capillarmente tra gli apicoltori, e quindi uno strumento a basso costo e versatile, facile da utilizzare, insomma. Sì, con un costo inferiore decine di volte rispetto alle strumentazioni usate in genere dai ricercatori. Senta, ma per esempio per contarle, com'è che è fatto il sensore? Dove è disposto? Il conta api, che è la parte più originale, è diciamo una specie di tornello, cioè sono delle aperture, dei tubicini attraverso cui le api entrano. Ora io voglio precisare che lo sviluppo di questo progetto si deve a un gruppo di ingegneri elettronici trentini che ora hanno costituito una società che si chiama Melixa SRL e che ha messo sul mercato questo come prodotto, non più come uno strumento, da un prototipo da ricerca. Cioè è finita la fase sperimentale di ricerca, no, adesso è possibile acquistarlo. E sente, per tornare all'importanza che le api hanno appunto sulla biodiversità, lei è anche presidente della VBA ONLUS, che è la World Biodiversity Association. Voi state cercando di lavorare appunto per mantenere e per riuscire a conservare le api, a portarle anche fuori dagli alveari, diciamo, degli apicoltori, farle tornare in natura. Sì, perché ora gli apicoltori hanno questo onore e questo onere di mantenere in vita una specie chiave per la conservazione della biodiversità. Però gli apicoltori devono fare un po' anche il loro lavoro e quindi tendono a organizzare i loro gruppi di alveari nelle zone più produttive in modo di massimizzare il loro reddito. Allora, abbiamo visto che bisogna ricreare questa rete di alveari ricostituendo quella che era una volta l'apicoltura familiare. E cosa avete pensato? Allora, stiamo proponendo un tipo di apicoltura diverso, è un'arnia in cui le api fanno tutto loro, gli si dà solo la scatola, loro costruiscono i favi partendo da zero, senza fogli cerei, per raccogliere l'eventuale miele prodotto. Il miele viene solamente spremuto, quindi non serve una centrifuga, non serve un magazzino. Quindi un alveare più semplice che potrebbero utilizzare tutti, insomma, o chi abita in campagna, ecco. Sì, come si può fare ad aderire al progetto? Allora, intanto si può andare nel sito della VBA oppure World Biodiversity Association. All'interno di questa pagina c'è una sottopagina che si chiama API per la biodiversità e lì ci sono istruzioni su come gestire queste api, ma la cosa più importante, abbiamo anche messo in rete i progetti per costruirsi questa arnia, perché si può acquistare, ma chi vuole e se la può costruire, fai da te. Di costruirsela può farsela, diciamo. Va bene, grazie Fontana, sono sicura che gli ascoltatori seguiranno le istruzioni per riuscire ad aderire in qualche modo a questo bel progetto, perché nel cibo del futuro vogliamo il miele. Assolutamente, ma a parte il miele, noi vogliamo i fiori, noi vogliamo la diversità e le api sono un organismo chiave, diciamo. Grazie Fontana, buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi, salve. Potremmo mettere anche un alveare qui in studio. Ah, potremmo pensarci. Comunque la certezza è che noi vogliamo sia le api che il miele nell'agricoltura del futuro. E quindi ci vogliono anche in natura. Bene, per oggi è tutto, ci risentiamo presto con una nuova puntata di Food Lab.